sono animalista, metti in pista la pista. Io che sono pacifista, mi ritengo di sinistra. Sarò un idealista, sarò un moralista. Componimento 312. Parla, ridi, fa un po' come credi. Buongiorno, buongiorno, 40ª puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Oggi è domenica 18 novembre 2012 e siamo nel 9° mese di trasmissione, andiamo in onda da domenica 4 marzo 2012. E stacanovisticamente abbiamo resistito anche durante il periodo estivo, non vi abbiamo mai abbandonati. Per il vostro bene, ovviamente. Ti ho mai spiegato cosa sento? No. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Silvia Vallecchi, Lorenzo Guadagnucci e Valentina Reggioli. Se l'avessi cucinato, gli animali sono uguali, rispetto creato. La scaletta musicale di oggi spazieremo dal pezzo Demential Rap, l'animalista di Ray Trouble, di cui ci affascina il ritmo, a Brucia la pelliccia di Joe Natta. Un pezzo dal testo graffiante e decisamente irriverente verso la volgarità delle donne impellicciate. Un pezzo così, se non lo passiamo noi, chi altri ve lo farà mai sentire? L'unica pelliccia che ci piace è quella psichedelica di un gruppo anni 80 che ha segnato la nostra gioventù. E per restare in quella indimenticabile temperie New Wave, vi proponiamo un gruppo che straparla e che ci colpisce sia per la bellezza del pezzo che proponiamo, sia per l'omonimo video, ricco di immagini e di stupende creature animali, che troverete facilmente su YouTube digitando semplicemente Talk Talk. Per la rubrica Perle agli umani di oggi, le note struggenti che la cantautrice e attivista dei diritti civili e del pacifismo più famosa del mondo, detta anche l'usignuolo di Woodstock, ha dedicato alla sua storia d'amore con un'altra figura, questa volta maschile, del movimento di protesta americano anni 60. In chiusura, un pezzo paradisiaco, l'unico ma planetario successo firmato da una band scozzese durata quanto un battito d'ali, il cui batterista proveniva dal più celebre e duraturo gruppo dei Simple Mind. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. La rubrica Visti da vicino, l'incontro diretto con gli animali, è per noi un tentativo di mostrare a chi ci ascolta che ogni animale è un individuo. Noi pensiamo che non sia giusto catalogare gli animali per categorie, gli animali da reddito, gli animali da carne, gli animali da latte, e che ogni individuo vada rispettato per quello che è, per le sue inclinazioni, e che sia importante conoscerli. Stavolta siamo tornati a Cavour, da Fabrizio, l'allevatore pentito, come lo abbiamo chiamato. Oggi è un agricoltore e in passato aveva un allevamento di bovini. Stavolta ci racconta di tre nuovi ospiti. Parliamo di tre caprette che sono al pascolo fra le mucche e la cavallina, sì. Petra. Sì, queste qua ci sono arrivate per Pasqua. Sono state acquistate da due ragazzi vegani che le hanno comprati per non farsi mancare il capretto a Pasqua. E visto che sono andati a patteggiare, così a contrattare con l'allevatore, hanno acquistato pure la mamma assieme e al momento noi non l'abbiamo, abbiamo detto sì, diamo disponibilità per uno stallo eventuale a questo capretto, poi i capretti erano due con la mamma e vabbè, abbiamo preso tutto, non abbiamo, sai, siamo per l'unità delle famiglie ancora e sono qua tuttora. Come si chiamano? No, al momento non hanno ancora un nome, perché abbiamo lasciato che i nomi glieli assegnassero io, chi ci segue sul nostro blog. E allora al momento abbiamo un tot di nomi che verranno sorteggiati. Sono in adozione, adottabili? Sì, sono adottabili, sì sì. Quando sì, sono sì. Arrivate? La settimana dopo Pasqua. Hanno avuto una bella fortuna, quei capretti lì di sicuro non sarebbero più sulla terra, eh? Sarebbero stati destinati a qualche banchetto pasquale. Ce n'è uno che zoppica. Sì, quello lì era quello più, diciamo, più esuberante, è andato nel box con i cavalli e ogni tanto tra animali si scalciano, non è una lesione preoccupante, il veterinario ci ha assicurato che non c'erano fratture, adesso piano piano l'appoggia già bene, però si vede ancora che comunque speriamo che abbia imparato la lezione, che i cavalli bisogna avvicinarsi con un po' di parsimonia. poco fa li abbiamo visti brucare da un salice e tu ci hai detto che stavano prendendo la loro dose di aspirina. Sì, abbiamo visto che comunque il salice è molto apprezzato sia dai cavalli che dalle capre, nonché dalle mucche. Le mucche difficilmente vengono in queste zone marginali qua al pascolo, sai, perché sono al limitare dei prati, loro tengono più il prato. Però comunque rientra tra le piante medicinali che vengono consumate dagli animali. I capri quindi cercano i cavalli, rispetto alle mucche che atteggiamento hanno? Dunque, ti dico, se non per quel caso fortuito del capretto, c'è una buona convivenza, sai, tra erbivori non sono soggetti a competizione o cose strane. Io non c'ero al momento che si è preso il calcio, bisogna vedere in che contesto se l'è preso. Noi pensiamo sia un calcio, poi magari, che ne so, potrebbe anche essere qualche altra causa. Noi l'abbiamo trovato zoppicante assieme al cavallo, abbiamo dato per scontato che fosse dovuto al cavallo. Poi magari la storia ha avuto di tutt'altra natura. Però se no in genere sono in buone condizioni, in buoni rapporti. Anche le vitelle spesso, specialmente nel periodo invernale, che i cavalli sono al coperto, quando ci scappano entrano a contatto con i cavalli, vengono a volte rincorsi, ma non c'è mai uno scontro vero e proprio, cioè c'è una buona convivenza. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Cosa ne pensi, stronza, che te ne vai in giro con la tua pelliccia da 10 milioni, con tutti quei poveri animali che ti porti addosso? E se pure è convinta di essere più canta, di essere elegante, di essere... Andrea Cadinu, 12 anni, è morto la scorsa settimana all'ospedale di Nuoro. Era rimasto ferito domenica scorsa nelle campagne di Irgoli in Sardegna mentre partecipava a una battuta di caccia al cinghiale. Era la sua prima battuta di caccia, una sorta di rito di iniziazione concluso in tragedia. La sua morte fa scalpore perché si trattava di un 12enne, poco più di un bambino. Ma sono molte le persone che ogni anno muoiono o rimangono gravemente ferite per colpa della caccia. Soltanto da settembre i minori morti sono 6. Nella scorsa stagione le vittime, sia feriti che morti, in ambito venatorio furono 86. Facciamo il quadro della situazione con Carlo Consiglio, presidente della LAC e autore del libro Divieto di caccia, tutto quello che i cacciatori non vogliono farci sapere, edizioni Sonda. Buongiorno. Buongiorno. Sul quotidiano L'Unione Sarda, negli scorsi giorni, un sondaggio mostrava che il 75% delle persone sono a favore dell'abolizione della caccia. Secondo lei si tratta in questo caso di un moto emotivo dovuto al fatto del ragazzino morto oppure c'è qualcosa di più? No, queste percentuali così alte di totali oppositori della caccia sono da molti anni che ci sono. Io sono 20 o 30 anni che seguo tutti i vari sondaggi di opinione fatti da svariate imprese e sempre il risultato è sempre quello. La maggioranza assoluta degli italiani sono favorevoli alla totale abolizione della caccia, anche se si danno 3 alternative: mantenere la caccia, ridurla oppure sopprimerla. Sempre più della metà degli italiani chiedono di sopprimerla, quindi non è dovuto solo a questa emozione di questo fatto attuale, la gente non ne può più veramente, anche perché ci sono questi cacciatori che hanno il diritto di entrare nei terreni privati e ci sono tanti cittadini che vanno a vivere in campagna una volta pensionati sperando di trovare un po' di tranquillità e invece cominciano all'alba ad essere svegliate dagli spari. Ma secondo lei, dato che appunto la maggior parte delle persone sono contrarie alla caccia, come mai ancora in Italia la caccia c'è e anzi fa numerose vittime come abbiamo visto? Le caccia c'è purtroppo in molti paesi, pare che il Costa Rica lo stia abolendo, come anche abolita in cantone di Ginevra in Svizzera e nella regione di Bruxelles in Belgio. Però nel resto del mondo, nella maggior parte dei paesi, la caccia esiste e in tutti i paesi c'è questa forte opposizione, più o meno naturalmente secondo i casi. Negli ultimi anni è cambiato qualcosa nell'opinione pubblica nei riguardi della caccia? Secondo lei è aumentata questa contrarietà? Secondo me è aumentata negli ultimi anni, sì. anche il sentimento sempre più che si sviluppa sempre di più di amore e di empatia con gli animali, trova ingiustificabile questo ammazzare animali per divertimento. Secondo lei qual è la strada che a questo punto ritiene più credibile per l'abolizione della caccia? Un referendum oppure una legge di iniziativa popolare oppure fare pressione sulle forze politiche oppure c'è qualche altro metodo? Secondo me l'unico mezzo sarebbe il referendum ed è un mezzo che abbiamo perseguito già per diversi anni, già dagli anni 70, presentando varie proposte di referendum fino ad arrivare a uno che è stato messo anche ai voti, però purtroppo non si è raggiunto il quorum. Il problema è quello di ridare fiducia, perché attualmente la maggior parte della gente crede che il referendum sia una cosa inattuabile, impraticabile, mentre non è così. Quindi secondo lei se ci fosse un nuovo referendum sarebbe possibile raggiungere il quorum su questo argomento? Può darsi benissimo che si raggiunga, anche perché si potrebbe agganciare questo referendum ad altri referendum molto sentiti dall'opinione pubblica, per esempio so che ci si sta muovendo nel campo dei rifiuti. Ricordiamo in chiusura il suo libro Divieto di caccia, tutto quello che i cacciatori non vogliono farci sapere. Ci può raccontare ad esempio una delle cose che i cacciatori non vogliono appunto farci sapere? Per esempio che i caprioli si possono suicidare. Questa è una cosa che è stata osservata da Ferron, che è un guardiacaccia che vive nella zona delle Alpi, nelle piccole Dolomiti vicentine, sul Pasubio. Lui ha visto un capriolo inseguito dai cani gettarsi in un burrone piuttosto sfracellarsi piuttosto che essere sbranato dai cani. Terribile. Grazie a Carlo Consiglio, presidente della LAC. La Buchmesse di Francoforte è la fiera del libro più grande del mondo e un vero marchio di qualità per la cultura. Mi trovo per lavoro nel padiglione che espone turismo, geografia, alimentazioni, salute, cucina e spiritualità di vario genere, incluse le case editrici religiose tradizionali. Per questo forse i personaggi qui sono particolarmente pittoreschi. Ho condotto una breve inchiesta nel campo della cucina per capire se ci sono case editrici tedesche con taglio esplicitamente cruelty free. Dopo un'accurata ricognizione ho trovato solo due case editrici che hanno come mission quella di costruire una società cruelty free, salvaguardando gli animali. Tutte le altre hanno magari dei libri a tema o una collana a tema, ma come case editrici pubblicano di tutto, quindi il loro messaggio parte già depotenziato. Una delle due case editrici, la SICT, è collegata con la Vegan Society e ha in esposizione due testi, Veg Up, uscito l'anno scorso, un libro di carattere etico, storico, filosofico, e Veganissimo, uscito quest'anno, un libro che aiuta a identificare le sostanze di origine animale che sono contenute nei cibi, nei cosmetici, nei tessuti. Veganissimo è strutturato come un sillabario, una guida che aiuta a transitare verso uno stile di vita non violento e vegan. Sono con l'autore del libro Veganissimo, la novità di quest'anno, che si chiama Ruben Proctor. Ruben Proctor. Pronunciato molto meglio di come riesco io. Il titolo è Thomas? Tierische Inhaltsstoffe und ihre Alternativen. Contenuti animali e le alternative vegan. Qual è l'obiettivo di questo libro? Con questo libro vogliamo presentare le alternative alle sostanze animali. Ci sono tutti i marchi, sostanze per tanti prodotti, tessuti, alimentari. Vogliamo che la gente capisca le alternative. Abbiamo visto che c'è uno spazio sul mercato e vogliamo illuminare alla gente, far vedere precisamente, spiegare quelle sostanze ci sono nei vari prodotti, come vengono prodotti anche, dimostrare, far vedere le alternative. Il problema è che le persone hanno dubbio che mangiando vegano mancano delle sostanze, oppure invece vuole denunciare quante sostanze animali sono dappertutto e noi nemmeno lo sappiamo. Sono entrambe le cose, che la gente riflette un po' su quello che consuma e anche convincere. Per noi è chiaro che una scelta etica, che non dobbiamo vivere a spese di altre creature viventi, ma vogliamo anche raggiungere quelle persone che finora non sono arrivate a questa consapevolezza, affinché capiscano quali sostanze sono negli alimentari, nei prodotti cosmetici, e magari anche raggiungano questa consapevolezza. Noi speriamo che sia facile per la gente la lettura, e all'inizio del libro abbiamo anche spiegato come va letto, come utilizzare questo libro come aiuto ogni giorno a trovare i prodotti giusti. Quanto tempo hai impiegato per raccogliere tutte le informazioni necessarie per scrivere questo libro? Cominciato nel 2007 con le ricerche. All'inizio c'era un libro piccolo con molto meno contenuto, e nel 2008 ho cominciato con la ricerca per questo libro molto più ampio, quindi si può dire che tutto insieme 4 anni di ricerca sono in questo libro. Tu personalmente sei vegano? Persönlich, du bist vegano. Ja, seit 12 Jahren. Da 12 anni. Come ti sei sensibilizzato a questo tema? Non è stato solo un attimo, ma era un processo lento. Ho cominciato nel 97 di lasciare la carne come primo passo. Nel 1999 ho fatto il passo anche essere vegano, perché ho visto che è il modo più etico di alimentare. Sì, motivi etici, e non solo l'alimentazione, ma tutto il modo di vivere. Immagino che tu abbia un altro lavoro. Che lavoro fai? Mi chiamo un vegano di professione, ma oltre a quel libro faccio anche delle traduzioni di testi per questo tema, e ho anche un negozio, un webshop, e scrivo anche per vari siti internet per questo tema del veganismo. Sei anche un attivista per i diritti degli animali, nel senso vai alle manifestazioni, fai attività diciamo di strada, banchini, cose di questo genere? Proprio manifestazioni non faccio in prima linea per mancanza di tempo, perché scrivere questo libro occupava tanto tempo e un po' di tempo libero ci vuole anche la famiglia. La terza voce maschile che avete sentito è quella del mio collega di Lipsia e amico, sensibile al tema, Thomas Hertel, che ringrazio per avermi aiutata nella traduzione dal tedesco all'italiano. E adesso leggo per voi una voce del sillabario veganissimo. Eparina. Da animali uccisi, un composto da unità di saccaridiche con caratteristiche anticoagulanti. Prevalentemente viene estratta dalla mucosa dell'intestino dei maiali o in parte anche da tessuto polmonare di bovini. Viene utilizzata di routine come principio attivo medicinale per evitare o curare i coaguli dopo ferite gravi, per esempio nell'ambito di un intervento chirurgico o di degenza, come iniezione o infusione permanente. È presente anche in creme per la cura di rigonfiamenti e infiammazioni, sostanza utilizzata per la cura della pelle in diversi prodotti cosmetici. L'altra casa editrice è la Gabriel Verlag, che è gestita da un gruppo di cristiani delle origini, molto critici verso la Chiesa come istituzione. Sostengono che il primo macellaio della storia sia stato proprio un prete, con la storia dei sacrifici animali per purificare le anime degli uomini. La Gabriel Verlag ha pubblicato diversi titoli per una vita cruelty free. Alcuni sono di cucina, altri sono più filosofici, tipo Lascia vivere gli animali, oppure Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha i valori più alti, con sottotitolo Sapevate che gli animali comunicano con una sorta di linguaggio per immagini? O anche Vegetariani, eretici e senza Dio? Cosa vegetariani e carnivori dovrebbero entrambi sapere? Con una copertina abbastanza angosciante, con una piccola pecora morta. Molto efficace, direi. Per la casa editrice Gabriel Verlag intervistiamo la signora Silke Ziallas. Per noi un messaggio importante è mostrare che non uccidere gli animali è stato un messaggio della cristianità, in particolare della cristianità delle origini. La Chiesa poi non lo vede così, però noi diciamo che anche Gesù di Nazareth e la sua gente, i suoi apostoli, erano vegetariani. L'etica globale oggi ci dice che bisogna trattarci bene l'uno con l'altro, tra uomini. Però noi pensiamo che anche gli animali, gli esseri non umani, debbano essere trattati bene, al meglio, incluse ovviamente le piante. Dio ha fatto dire a Gesù nei testi sacri e poi ai profeti e a tanti altri personaggi fino a oggi, che non si devono uccidere gli animali, i quali sono nostri fratelli e sorelle. Hanno sentimenti, provano dolore, quindi non è giusto ucciderli e mangiarli. Ci sono anche poi tra i nostri libri di cucina etica, facile e pratica, oppure libri sulla radice etica cristiana, sulle varie parti dei testi sacri in cui Dio dice attraverso i suoi profeti e in epoche diverse lungo tutto il corso della storia del vivere sulla terra, facendo della terra un posto migliore. In particolare, forse conoscerete tutti Isaia, nei versi che dicono: verrà il giorno in cui l'agnello giacerà con il leone e ogni animale umano e non umano vivrà in pace assieme. Ecco, questo è quello che noi cerchiamo di portare qui alla Fiera del Libro. Questo è il nostro messaggio, la nostra specificità. The background, the ethical background about the Christian ethic and quello che dico alla gente qui è che se guardi un animale negli occhi e lo conosci personalmente, puoi decidere: voglio mangiare questo animale? La gente non mangia i propri cani, non mangia i propri cuccioli di casa, perché li conoscono, hanno con loro familiarità, conoscono le loro personalità, ma anche le mucche e i maiali hanno una loro specifica personalità. Il mio cambiamento è avvenuto quando avevo 15 anni, età in cui hai tante domande sul mondo, su quello che è giusto, su quello che non è giusto. E a quell'età venni a sapere quel che succede agli animali, quello che soffrono poiché li mangiamo, e anche le conseguenze sul clima e sulle persone affamate nel mondo. Così decisi di non mangiare più la carne. Oggi sono vegetariana, ma sto transitando verso una alimentazione vegan. Essere vegetariani ed essere vegani penso che siano due cose diverse. Ma sono anche due cose conseguenti. Una è la conseguenza dell'altra se hai questo tipo di etica, ma ciascuno deve avere il tempo per decidere. Noi vendiamo anche libri di cucina, in particolare abbiamo due libri di cucina vegana e un libro di cucina italiana del cuoco Claudio Panozzo, che è un ottimo cuoco italiano. Alcune delle sue ricette sono vegane, tutte le altre sono vegetariane. A parte queste due case editrici, per il resto, passeggiando nei corridoi della fiera nel settore cucina, un volume che mi ha colpito è Ab jetzt vegan, tradotto significa da adesso vegan. Oltre 140 ricette sane e senza prodotti animali, con un maialino rosa che strizza l'occhio in copertina. Malauguratamente, però, questi titoli, anche interessanti, finiscono mescolati ad altri, totalmente diversi, perché l'intento di queste case editrici è solo quello di coprire tutti i segmenti di mercato. Noi italiani ci distinguiamo con l'ultimo titolo del cuoco fiorentino Fabio Picchi, Soffriggo per te, che ovviamente, tanto per cambiare, torna ad affermare una tradizione alimentare che fa strage di animali e si sottrae a qualunque valutazione di tipo etico. Come direbbe il nostro chef preferito, Simone Salvini, la sua cucina sarà anche magistrale, ma è eticamente vecchia. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Ciao, sono Sara. Oggi vi racconto la ricetta delle spinacine. Ovviamente non hanno nulla a che vedere con le omonime cotolette. Si tratta di crocchette molto gustose, a base di lenticchie e spinaci, ovviamente. Gli ingredienti sono una tazza di lenticchie già cotte, un bel mazzo di spinaci freschi, due spicchi d'aglio, tre cucchiai di semi di sesamo, olio extravergine d'oliva, due cucchiai di farina integrale, pan grattato, salsa di soia, peperoncino in polvere, farina di mais fioretto. Per prima cosa scaldate una padella con un fondo spesso o antiaderente. Versateci i semi di sesamo e fateli tostare pochi minuti. Appena sentite che iniziano a scoppiettare, spegnete il fuoco e coprite con un coperchio, o i semi vi salteranno in giro per la cucina. Metteteli in un contenitore stretto e alto, unite un po' d'olio, circa 3 cucchiai, e frullate bene con il mixer, fino ad ottenere una cremina tipo il tahin. Lavate gli spinaci e tagliateli a pezzetti. Ora fate scaldare in una padella, magari la stessa in cui avete tostato i semi di sesamo, un filo d'olio e gli spicchi d'aglio. Se vi piace l'aglio tritatelo fine, altrimenti lasciate gli spicchi interi e toglieteli all'ultimo. Aggiungete gli spinaci, un pizzico di sale, pepe e peperoncino. Fate cuocere a fuoco vivace per una decina di minuti circa. Ora riunite in una ciotola gli spinaci, le lenticchie già cotte, la crema di sesamo, la salsa di soia e la farina integrale. Aggiustate di sale e pepe, frullate velocemente con il mixer in modo da ottenere un composto omogeneo. Se vi sembra molle, aggiungete qualche cucchiaio di pan grattato. Formate delle polpette, appiattitele leggermente con il palmo della mano e passatele velocemente nella farina gialla. Un'altra spolveratina di sale e pepe, cuocete in forno caldo a 180 per circa 20 minuti. Gustatele calde e tiepide. Ciao, alla prossima! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Il libro di cui parleremo oggi è Il giorno in cui decisi di diventare una persona migliore della scrittrice tedesca Karen Duve, edizioni Neri Pozza, 2012. Confesso che mi sono imbattuta in questo testo per caso, curiosando un pomeriggio in libreria. Ad attirarmi è stata per prima cosa la copertina. Una donna a tavola con coltello e forchetta in mano e nel piatto un coniglio, vivo però, peloso e con uno sguardo dolcissimo. Il giorno che decisi di diventare una persona migliore è il racconto in prima persona, appassionato e non privo di umorismo, di una sorta di esperimento che la scrittrice ha condotto su se stessa, diventare per 2 mesi successivamente vegetariana, vegana e fruttariana. Ne è venuto fuori un diario inchiesta su quello che si nasconde dietro a ciò che mangiamo e di cui spesso non siamo a conoscenza, dalla sofferenza animale agli interessi economici delle multinazionali, ma anche come il nostro rapporto col cibo influisca su ciò che siamo e pensiamo e anche sulle nostre abitudini sociali e familiari. La storia, e come potrebbe essere diversamente, inizia in un supermercato quando Karen, con un gesto abituale e ormai meccanico, mette nel carrello della spesa uno dei suoi piatti preferiti, pollo arrosto pronto per la cottura. Ma ecco che all'improvviso le vengono in mente le parole della sua amica Kerstin, detta Grillo, che proprio come il grillo parlante di Pinocchio risveglia la sua coscienza critica. «Come puoi comprare questa povera carne martoriata?» le dice Grillo. «Sai benissimo come vengono trattati questi polli». A casa, qualche sera dopo, Karen guarda in TV il film Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts. Il protagonista è stato mollato da Julia Roberts e i suoi amici gli fanno incontrare una serie di ragazze per consolarlo. Tra queste c'è anche una fruttariana, che, manco a dirlo, viene dipinta come una povera pazza insopportabile che si preoccupa anche per la sorte delle piante e degli animali. Karen ride, eppure si sente stranamente a disagio. Cosa può spingere una persona a diventare fruttariana? E perché lei, invece, continua a mangiare carne senza porsi alcuna domanda? È l'inizio di una metamorfosi personale profonda che porterà Karen, come Alice nel Paese delle Meraviglie, a guardare con occhi diversi non solo il mondo degli altri animali, ma anche a scoprire quali sono i suoi valori, le sue paure, le sue difficoltà e, come dice il titolo del libro, ad iniziare ad essere una persona migliore. Per incuriosirvi, ecco un brano tratto dal libro di Karen Duve, Il giorno che decisi di diventare una persona migliore. Buona lettura da Beatrice Montini. Ridevo da morire, eppure neppure. Mentre ridevo, mi sentivo stranamente a disagio. Al dire il vero, non sapevo nemmeno cosa mangi esattamente una fruttariana. Dopo che Hugh Grant e Julia Roberts si erano rimessi insieme, andai al computer e mi misi alla ricerca di ulteriori informazioni sul World Wide Web. Ecco, fruttariano è uno che si nutre solo di parti di vegetali che si possono rimuovere senza distruggere le piante. Per lo più, frutti, appunto. Una mela si può mangiare senza per questo danneggiare il melo, l'insalata no, le radici e le patate neppure, noci, pomodori e semi di girasole sono consentiti. Beh, mi sembrava un po' ridicolo, ma soprattutto molto faticoso e complicato. Al tempo stesso però mi colpì che qualcuno potesse sottoporsi a tante limitazioni e complicazioni per proteggere piante e animali, attirandosi addosso per di più lo scherno dell'intera umanità. Un'umanità che considera normale trattare male gli animali, che considera un'eventualità straordinaria che possono avere uno standard minimo di vita, per esempio il loro ambiente naturale. E io, senza l'intervento di Grillo, avrei comprato di nuovo quel pollo pronto per la cottura, che nella sua infelice breve vita di sole 5 settimane probabilmente non aveva mai visto un raggio di sole. Cercai di immaginarmi che razza di mostro poteva apparire agli occhi di una fruttariana. E allora mi venne in mente una cosa. Quello che distingueva la fruttariana del film Notting Hill da me non era il fatto che le nostre abitudini alimentari poggiassero su differenti visioni del mondo. No, la differenza vera e propria era che la fruttariana aveva preso una decisione di ordine morale sulla quale orientava la sua alimentazione, mentre io non volevo rendere conto a nessuno dei miei comportamenti. Dio mio, ero veramente come Pinocchio, un burattino ingordo, egoista e senza coscienza. Comunque, bene o male, l'anno stava per finire. Era il momento giusto per formulare buoni propositi. Dal 1 gennaio l'avrei fatta finita con il vecchio modo di fare la spesa e avrei cominciato a mangiare in maniera coerente con le mie convinzioni. Ma quali erano le mie convinzioni? Cos'era per me una bistecca? Un simbolo della mia cultura alimentare e della mia gioia di vivere, completamente accettabile se proveniva da allevamenti biologici? Ma anche i maiali bio non vengono accarezzati quando vanno al macello. Non avrei dovuto diventare vegetariana da tempo? E fruttariana? Erano solo scelte ridicole o ero io che le giudicavo tali perché non riuscivo a vedere oltre il bordo del mio piatto e consideravo le mie inveterate abitudini come la misura di tutte le cose? Ora sapevo quel che volevo fare. Avrei sperimentato su me stessa diverse forme di alimentazione per capire veramente bene la cultura a me estranea. Dei vegetariani, dei vegani e dei fruttariani, dovevo diventare parte di quelle culture, non solo nutrirmi coerentemente secondo i loro principi alimentari, ma anche confrontarmi con le loro rispettive visioni del mondo e difenderle. Alla fine di questa ricerca sarei stata informata in modo più consapevole e, dopo essermi immedesimata in ciascuna di quelle forme di alimentazione, avrei potuto decidere quale dovesse diventare la mia. Un appuntamento da non perdere per venerdì 30 novembre 2012 alle ore 20. La LAV, Lega Antivivisezione, invita tutti gli ascoltatori al Teatro Andrea del Sarto in via Manara a Firenze per una commedia in vernacolo e un buffet cruelty free a favore dell'associazione Rapid Dogs Rescue, che recentemente si è impegnata nel salvataggio dei cani del canile Lager di Domicella, in provincia di Avellino. Lo spettacolo è una commedia che ha per protagonisti dei cani, i quali ovviamente non sono mai in scena, e i loro paradossali padroni, che attribuiscono ai cani pregiudizi, bisogni e ragionamenti degli uomini, confondendo la realtà con la loro immaginazione. Insomma, una commedia dove gli animali e gli uomini condividono preoccupazioni e sentimenti, ma anche parecchi difetti. L'offerta minima a persone di 20 euro, per le informazioni e le prenotazioni che vanno fatte entro il 28 novembre, c'è un numero di telefono 328-842-4325, al quale risponde Fernanda, e una mail lavfirenzeeventi@lav.it. Metteremo naturalmente tutte queste informazioni anche sul nostro blog. The moon is closer now today. Siamo in chiusura e vi ricordiamo che martedì 20 novembre alle ore 18 è possibile assistere all'ultimo incontro del ciclo di tre organizzato dall'associazione Progetto Vivere Vegan presso la Biblioteca De André in via delle Carra 2 a Firenze, incontro dal titolo Vivere Vegan, salute e alimentazione. Sarà presente la dottoressa Anna Romano. Fotografie, ricette, approfondimenti, interviste, video, alcuni dei quali particolarmente interessanti come quello intitolato PD, proteine disumane, li troverete sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Scriveteci a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali, restiamo animali, restiamo animali, restiamo animali, restiamo animali.